Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi e benvenuti ad una nuova puntata di Questa casa non è un albergo. Oggi, Alberto, ciao innanzitutto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Oggi partiamo proprio da un'esperienza di Alberto. Alberto ha accompagnato il suo figlio maggiore Jacopo in un momento molto importante. Jacopo la scorsa settimana ha fatto la prima comunione e noi devo dire che proprio abbiamo partecipato a questo momento così importante e la prima comunione di Jacopo ci ha così suggerito questa riflessione a voce alta, stimolata anche da una lettera di un nostro ascoltatore. E vogliamo parlare di spiritualità. Alberto. Sì, ero molto colpito perché a noi genitori è stato proposto, tra l'altro, nell'accompagnare i nostri figli, una sorta di percorso, un po' di riappropriazione, riflessione sulla spiritualità non solo dei figli ma anche dei genitori, e mi sono reso conto in questo, per esempio, incontro che abbiamo fatto 3 settimane fa in un oratorio, che c'erano tantissimi genitori che per la prima volta ritornavano in un luogo dove si educa la fede, dove c'è anche proprio un percorso specifico che aderisce ai dettami della religione cattolica. Per loro era proprio un ritorno, una sorta di nuova prima volta. Allora, discuteremo di questo tema, di questa occasione, Alberto, insieme a tanti ospiti, e voglio presentarvi subito il primo, il dottor Riccardo Grassi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sociologo dello IARD, che ha da poco presentato i risultati di una ricerca dal titolo davvero interessante e che fa proprio al caso nostro: i giovani e il futuro con o senza la fede. Dottor Grassi, la prima cosa che vorremmo da lei è che ci raccontasse come avete condotto la vostra ricerca e quali obiettivi vi siete prefissati. Si è trattato di una indagine fatta su un campione di 1000 giovani tra i 18 e i 29 anni a livello nazionale. L'obiettivo era quello di confrontare un po' i risultati ottenuti con quelli di un'analoga indagine svolta nel 2004. Sì. E quindi di vedere come sta cambiando la fede dei giovani italiani. Quali sono i dati, gli aspetti che l'hanno colpita di più? In realtà sono dati che per chi frequenta gli ambienti formativi della Chiesa Cattolica in particolare non stupiscono, nel senso che chi è abituato a lavorare con i ragazzi nel campo formativo, l'emorragia, la difficoltà di riconoscersi nella fede cattolica e nella Chiesa in particolare sono abbastanza evidenti. Dal punto di vista sociologico sono i numeri che stupiscono, nel senso che le dimensioni dei fenomeni sono molto marcate. Per dare qualche indicazione agli ascoltatori, il numero di giovani che si definisce cristiano cattolico è passato dal 66%, quindi 2 su 3 nel 2004, al 52%, quindi 1 su 2 nel 2010. Su questi fenomeni una riduzione del 14% è un evento veramente molto grosso, perché sono elementi che hanno molto a che vedere con la dimensione dell'identità. L'altro dato significativo è che questa diminuzione, questa difficoltà di riconoscere o di identificarsi appunto come appartenente alla religione cattolica funziona in maniere molto diverse. Noi abbiamo osservato un allontanamento progressivo di coloro che già 6 anni fa avevano posizioni un po' sui generis, un po' distaccate, scollegate da una comunità di riferimento, e un rafforzamento invece delle posizioni di chi è più partecipe, è più convinto di questa identità. E secondo lei, e soprattutto secondo la vostra ricerca, quali significati attribuiscono i ragazzi che dichiarano di professare una fede, di avere una spiritualità? Quali genere di bisogni assolve questa cosa nella loro vita? Sì, su questo c'è da dire che c'è una differenza molto marcata appunto tra chi pratica, tra chi frequenta la Chiesa e chi non la frequenta, ma in generale i ragazzi riconoscono 3 elementi centrali: la fede come strumento che aiuta a superare le difficoltà da un punto di vista psicologico. La fede come strumento che dà senso alla vita e che dà speranza al futuro. Sono tre elementi che hanno molto a che fare con il senso, con il dare significati all'esistenza e con l'ansia che è prodotta dalla difficoltà di vivere, di interpretare un'epoca contemporanea che è molto complessa, è molto globale e quindi rischia di dare pochi punti di riferimento. Meno rilevante è invece l'importanza attribuita alla fede come strumento etico, come strumento per distinguere il bene e il male. Quindi è una lettura in realtà molto più individuale che sociale, molto più anche autoreferenziale che sociale, e questo ha a che fare un po' con tutte le dinamiche che noi stiamo osservando oggi sulle culture, sui mondi giovanili, in cui la dimensione più collettiva fa fatica a fare breccia. Allora, dottor Grassi, una ricerca interessante. La ringrazio per averci così illustrato questi dati che vanno letti da un addetto ai lavori, e quindi lei ci è stato davvero utile. Io la ringrazio molto e la saluto, perché forte di quello che lei ci ha appena raccontato approfondiremo il tema con altri due ospiti partendo dalla lettera di una ascoltatrice. Dottor Grassi, grazie, auguri e buona giornata. Grazie a voi e arrivederci. Questa casa non è un albergo. Eccoci di nuovo insieme, ci hanno raggiunto i nostri due prossimi ospiti. In linea con noi abbiamo il professor Duccio Demetrio, docente di filosofia dell'educazione all'Università Milano Bicocca e autore del libro Ascetismo Metropolitano, l'inquieta religiosità dei non credenti. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a voi tutti, grazie. In linea con noi abbiamo Alberto. Ci piace molto. Ci piace molto, è un nostro mito, Don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile Beccaria. E presidente dell'associazione Comunità Nuova. Don, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, prima di discutere con voi, vorrei farvi ascoltare questa lettera che ci è arrivata. L'ascoltiamo e poi ne parliamo insieme. In questi giorni sto accompagnando mio figlio Luca alla preparazione della sua prima comunione. In famiglia non siamo praticanti e domenica scorsa il prete ha convocato tutti noi genitori per un ritiro spirituale della durata di mezza giornata. Ci sono andata piena di fatica, mi dicevo uffa che barba, e invece quel sacerdote mi ha toccato profondamente. Diceva che a volte le esperienze dei figli ci aiutano a rimettere tutto in prospettiva e soprattutto fanno alzare lo sguardo che troppe volte teniamo fisso a terra. La spiritualità è una grande risorsa per la vita di tutti, indipendentemente dalla religione che uno segue. Non buttatela via. Tra l'altro, osservando Massimo, il fratello maggiore di Luca, che ha 16 anni, lo vedo così concentrato su cose come musica e sport e poco attento alle grandi domande della vita che un po' mi sento in colpa come mamma. Ma davvero la spiritualità è un elemento che non può mancare nel bagaglio di vita di un figlio? E perché allora l'ateismo è sempre più diffuso e i ragazzi sempre più lontani dall'insegnamento delle religioni? Professor Demetrio e Don Rigoldi, noi prima con Alberto e i nostri ascoltatori abbiamo sentito la ricerca dello Yard che sottolineava l'abbandono crescente della religione cattolica da parte dei ragazzi. In fondo questa lettera si interroga sullo stesso fenomeno. Quello che vogliamo chiederci è: che cosa sta succedendo? Comincio dal professor Demetrio, che nel suo libro afferma che, mi corregga, professore, che forse ora la spiritualità ha un altro modo di essere sentita e vissuta che esula dalla pratica religiosa formale. È così, professore? Sì, una certa spiritualità. Bisogna intendersi sui termini. Intendiamo, perché io intendo la spiritualità una sorta, direi, di scontento umano. Quando a volte non ci accontentiamo di avere delle certezze, delle verità assolute, dei dogmi, ma allo stesso tempo non mettiamo da parte, non accantoniamo il problema dell'enigma, del mistero della nostra esistenza. Ecco, secondo me la spiritualità si accende in forme anche molto diverse quando incominciamo a porci queste domande, e tra i giovani al di là delle ricerche, credo che ce ne siano ancora tanti che si pongono questi quesiti, e non riusciamo sempre a identificare nelle proposte religiose o di fede attuali ciò che possa soddisfarci. E pertanto purtroppo la situazione può diventare anche un po' paradossale, perché avvertiamo questa nostra incertezza, insoddisfazione, ma allo stesso tempo questo bisogno di ulteriorità e rischiamo però poi di lasciarci andare soltanto alle sollecitazioni del mondo finito, come si dice, del mondo quindi che non ha aspirazioni altre che non siano quelle che conosciamo, il successo, la competizione, il mondo materiale per intenderci. E per questo che io credo, anche se non sono credente, che sia determinante la presenza di voci spirituali secondo le tradizioni che più ci sono vicine, ma che siano anche molto importanti quelle proposte, quelle suggestioni che vengono da vicende, da tradizioni di spiritualità e religiosità che non sono, diciamo, nostrane, no? Per esempio, le suggestioni che vengono da una spiritualità del buddismo, da una spiritualità anche ascetica, da una spiritualità di religioni molto lontane, io le reputo queste suggestioni molto importanti, perché in comune, come tutte le religioni, hanno valori come la pace, la convivenza, la fratellanza. Quindi è su questo credo che dobbiamo soprattutto cercare di lavorare per parlare ai nostri giovani. Don Rigoldi, passo la palla a lei. Sì, io direi una cosa di questo genere, che in tutto sommato i ragazzi di oggi, come gli adulti di oggi, sono abbastanza storditi e frastornati da una serie di stimoli che li mettono verso fuori di sé, la musica, lo sport e quant'altro, e quindi adulti e giovani finiscono dentro lì. Peraltro le voci della spiritualità, penso come prete cattolico, i nostri linguaggi sono ovviamente molto incapaci, poco a centrare quelli che sono i desideri di spiritualità della gente. Difatti io credo che posso dire una cosa di questo genere, che siccome molta gente mi chiede di ragionare di religione, mi chiede anche il battesimo perfino, ma la difficoltà più grossa è la Chiesa. Non è Gesù Cristo, è la Chiesa, perché l'istituzione si presenta così prepotente, così prevalente da allontanare. Per cui noi come Chiesa, perché anch'io faccio parte di questa Chiesa che è istituzione, noi dobbiamo trovare un linguaggio semplice, umano, cordiale, sorridente, di un Dio che ci ha voluto bene e vorrebbe che fossimo tutti allegramente, tranquillamente e pacificamente fratelli. Abbiamo bisogno, credo, di quella ricerca. Iar diceva che appunto il gradimento della Chiesa, ma anche la fede dei giovani, è ovviamente impicchiata. Io credo che sia per quel che riguarda la Chiesa, perché poi il nostro linguaggio veramente è scadente, perché poi nel mondo cattolico uno pensa alla spiritualità, pensa poi ci sono anche i buddisti, ci sono anche altre appartenenze anche cristiane, ma pensa alla Chiesa cattolica e lì si ferma se non trova un'accoglienza, un sorriso, un linguaggio che lo convinca. Abbiamo un bel po' da pensarci noi preti a questo tema, a questa afasia che fatica a parlare di Gesù Cristo che abbiamo. Più facile parlare di Chiesa, di Papa, di Vescovi, di preti, che non parlare del Maestro, che è quello che un grande eroe dell'umanità, che è Gesù Cristo. Alberto, e i genitori come si pongono? Ma io... Tante volte si impongono e tante volte proprio gettano la spugna, forse perché viviamo quello che Don Rigoldi ci racconta proprio come adulti, cioè c'è un bisogno di spiritualità, forse una fede, ma ci si ferma davanti alle istituzioni che sentiamo lontane. Penso che chi sta crescendo effettivamente la dimensione della spiritualità, che è molto intima e personale, però in qualche modo la mette in relazione con gli incontri che fa e le persone che avvicini. Per cui, secondo me, diventa fondamentale, da una parte, il livello di testimonianza che si riceve dentro casa. Cioè, cosa succede a tua mamma e tuo papà nel momento in cui tu provi a fare a loro qualche domanda sul senso della vita, su cosa c'è dopo la morte, che genere di testimonianza ti sanno dare, come loro si muovono nell'area proprio dello spirito, eventualmente del sacro, che genere di messaggi ti riescono a mandare. Secondo aspetto, nel lavorare con molti adolescenti io mi rendo conto che poi, proprio come diceva Don Rigoldi, cioè le figure che sono nei luoghi che appartengono alla chiesa e dove i ragazzi possono andare, frequentare, eventualmente aggregarsi, fanno la differenza. Per cui un prete di oratorio, insomma, effettivamente può avere un enorme carisma e in qualche modo può anche proprio proteggere il percorso di crescita di un ragazzo che si trova in difficoltà. Tra l'altro io penso che il lavoro che fa Don Rigoldi al Beccaria probabilmente è fatto molto anche proprio di questo, cioè testimoniare una spiritualità concreta che salva la vita e che non è così trascendentale o meditativa. Per cui rilancerei un po' la parola al professor Demetrio prima e a Don Rigoldi, cioè le figure che testimoniano la spiritualità nella società di oggi. Sono figure terrene, cioè incarnate nel mondo del qui ed ora, o alla fine rischiano di essere così astratte, così lontane, che effettivamente non hanno alcuna attrattiva per i ragazzi? Professor Demetrio. Ma senz'altro le suggestioni che un giovane può trarre dalla presenza, dalla testimonianza, resta un momento cruciale, e ne sentiamo la mancanza oggi. Non solo i giovani, credo, ma anche agli adulti. È indispensabile ripristinare delle occasioni, delle possibilità di confronto che non riguardino soltanto la banalità anche del nostro vivere, delle nostre giornate. Cioè, se non introduciamo dei motivi di ordine superiore, ma dove intendo per ordine superiore non solo i valori trascendenti e religiosi, ma anche altre idealità che si incontrano inevitabilmente, ne accennavo prima, con i valori soprattutto della tradizione cristiana, nella quale io, pur non essendo credente, mi riconosco pienamente, perché questi valori, tra l'altro, sono i valori anche di una spiritualità laica, non credente, non beceramente atea, ma di una mentalità che vuole, ecco, rendere più complesso il senso dell'esistere, della nostra vita. Tutto si gioca quindi rispetto agli eccessi, secondo me, di semplificazione che oggi vengono offerti, dinanzi agli eccessi di spettacolarizzazione. Tutto questo ci estranea, cioè ci trasferisce in un presente che è schiacciato continuamente su se stesso. Non ci viene offerta quindi la possibilità di rendere ragione delle grandi problematicità della nostra esistenza. Allora io, come professore di filosofia dell'educazione, come adulto, che cosa posso fare? Che cosa faccio con i miei studenti, con le mie matricole? Cerco di farli pensare, ma con, ecco, il massimo di rispetto per le loro idee, perché io sono convinto che all'insegna della tolleranza e della libertà e della possibilità di convivere attorno a questi valori, ecco, una spiritualità altra, una spiritualità più orientata al trascendente può svilupparsi, e d'altro canto può anche ed è necessario che si sviluppi. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme a noi abbiamo Don Rigoldi, naturalmente Alberto Pellai e il professor Duccio Demetrio. Ci stiamo interrogando sulla spiritualità, quanto è importante nella vita di noi adulti e dei nostri figli. Lo facciamo proprio in questo tempo in cui molte famiglie stanno accompagnando i loro figli alla prima comunione o alla cresima, e queste possono essere occasioni di riflessioni, di ripensamento, di autoesami. Don Rigoldi, la nostra mamma coglie l'occasione per fare una riflessione sul bisogno di spiritualità e fa ha una specie di rimpianto, sta seguendo questo secondo figlio, la sta vivendo più intensamente, dice, mentre l'altro forse mi sono lasciata scappare un'occasione. Io ho letto così tra le righe, non so se anche lei, Don Rigoldi, è anche possibile, ma adesso l'occasione ce l'ha, non se la lasci più scappare. Io credo che se ha avuto l'idea che questo cristianesimo presentato da questo prete simpatico e disponibile sì, una cosa bella, dovrà mettere del tempo e dell'attenzione, della riflessione per leggere il Vangelo e per pregarci un po' sopra, magari per meditarci un po' sopra, sapendo che la fede è in Gesù Cristo, nel suo Vangelo, non è nei preti, in noi preti, nei vescovi, il Papa, è lì il centro della fede è un rapporto personale con Gesù Cristo, insomma, ecco. che si consuma nel silenzio, nella meditazione, e poi diventa subito, insieme con gli uomini, con le donne che si incrociano, diventiamo costruttori di giustizia e di fraternità. Quindi sono due cose che si mettono insieme, però c'è bisogno di metterci tempo, testa, cuore, fatica qualche volta, perché non avrà niente gratis questa signora, deve trovare la maniera per trovare spazi e compagnia per leggere un po' il Vangelo, per approfondirlo un po', per rendersi conto di qual è l'autentica fede cristiana. Non peschi tanto nei suoi ricordi, che sono anche un po' sfumati, e poi forse non era neanche la strada quella la più centrale per la sua vita. Senta, Don, però tante volte si sente dire, io credo ma non vado in chiesa. E i ragazzi spesso sfuggono, no? Ai nostri tempi era automatico, alla domenica tutti andavano a messa, certo. E anche i ragazzi, io mi ricordo anche i ragazzi grandicelli, certo, come no. Adesso ai tempi del liceo, già dopo le medie, già dopo la cresima, iniziano a cercare di trovare scuse, ci sono genitori che impongono e ci sono genitori che poi alla fine dicono, se non lo senti tu non posso importelo, perché certo, andare a messa pensando ad altro, guardando l'orologio, chiacchierando, stando in fondo, non vale. Giusto, però ma io sono assolutamente d'accordo. Certo è che qui bisogna che ci siano due movimenti. Intanto un movimento da parte della Chiesa per far dei presentarsi anche nei riti e nelle preghiere in maniera più comprensibile per i giovani. Credo che bisogna pensare anche proprio come gente che vuole educare alla spiritualità e al cristianesimo, dei luoghi di incontro, di confronto che siano anche fuori dalle celebrazioni, che possono essere un punto di arrivo, non un punto di partenza, perché oggi bisogna che abbiamo dei punti di partenza, perché l'efficacia dei nostri riti è lontana ma io che stesso che dico messa, tante volte leggo di quelle preghiere che dico, mamma mia, ma che roba, ma siamo nel 1100, non siamo mica nel 2010. Bisogna anche, comunque da soli non ci si inventa la fede, questo è poco ma sicuro. Ci vuole un luogo dove adulti e genitori, che siano poi la messa, forse meglio ancora qualche spazio di libero pensiero e anche di libera proposta, anche di dove ognuno dice quello in cui crede senza voler imporre niente a nessuno. Lì allora passa un percorso di fede che è efficace. Sì, dobbiamo proprio cambiare tante strutture noi dentro in questo percorso, e questo bisogno di spiritualità, che vuol dire anche di autenticità di dentro della persona che sa in che cosa crede, quali sono i suoi principi, è così necessaria per l'educazione dei figli, assolutamente. Professor Demetrio, quando lei ha detto parlo con i miei ragazzi, con i miei studenti e parliamo, in effetti sta facendo, no? Da laico, questo un percorso che già anche Don Rigoldi suggerisce, di cui sottolinea l'importanza, altri luoghi, altri contesti, altre teste, ma che coltivano comunque questa dimensione, è assolutamente importante. Certo, perché io credo che sia soprattutto la provocazione nei confronti della pigrizia del pensiero, il primo momento in cui domande che poi ci portano alla fede o comunque che ci possono portare verso, ecco, una vita, come dicevo, più problematica, sono queste domande iniziali che noi adulti abbiamo il compito, diceva anche Don Gino, di sottoporre con costanza, con insistenza ai ragazzi e alle ragazze. Però ecco, io devo dire che allo stesso tempo non ho perso le speranze, perché vedo anche nascere una generazione nuova, diversa, che è mossa al di là poi degli orientamenti di fede da una grande nuova generosità che sta crescendo, che forse non vediamo, che le ricerche non riescono a cogliere, ma tra i miei studenti e le studentesse ci sono dei gesti di generosità, si dedicano così tanto all'esperienza del volontariato. Ecco, e diceva prima Don Gino, la giustizia, certo, la giustizia costituisce quindi uno di quegli ideali che dobbiamo vedere noi adulti in primo luogo di riproporre all'interno delle famiglie. Quindi in primo luogo è all'interno della famiglia che si tratta di spegnere la televisione e di cominciare a ragionare, a riflettere. Professore, lei tocca un tasto ad Alberto assai caro, spegnere la televisione e accendere pensieri. Alberto, guarda, facevo proprio andare la testa mentre sentivo i nostri ospiti che parlavano e proverei a lanciare questa provocazione ai genitori. Cioè, un tempo molti adolescenti lasciavano proprio la spiritualità, la pratica religiosa, perché non ne potevano più. Stavo pensando a che genere di genitori possiamo trovare in giro su questo tema. Cioè, ci sono genitori molto coinvolti, molto praticanti, che testimoniano e cercano di trasmettere questo ai loro figli. Poi c'è l'esatto contrario, genitori che magari non hanno un credo, però hanno proprio uno sguardo alto verso i temi significativi, ma altri genitori sono invece completamente assorbiti proprio dalla vita e da tutto quello che succede nel qui ed ora, per cui non vanno oltre. Credo che poi c'è un gruppo di genitori che secondo me è molto stimolante, molto vicino anche a quello che ha scritto Duccio Demetrio nel suo libro, cioè genitori magari che non sono praticanti di una religione, ma che hanno uno sguardo molto attento a preservare la spiritualità dei loro figli, a ricercare insieme a loro risposte possibili alle grandi domande, che li lasciano andare, frequentare questo o quel contesto e che sanno che un giorno i figli dovranno fare proprio una loro scelta. Secondo me sono un esempio di genitori nuovi molto interessanti e dei quali potremmo avere probabilmente anche importanti lezioni di vita. Allora, c'è tempo di chiedere a Don Gino e al professor Demetrio di lasciarci una parola su cui far andare la testa, almeno per questo fine settimana, magari in occasione anche di una preparazione alla comunione o alla cresima. Don Rigoldi, inizio da lei. Io direi così, io penso, nel mio sogno scriverò un libro, si chiama così: Gesù Cristo, due punti, un operaio ebreo. Vorrei che riscoprissimo l'umanità di questo straordinario personaggio, perché come idea di uomo è mica male, insomma, ed è l'oggetto della nostra fede, in fin dei conti. Mi piace quella, non è mica male. Professore? Per me invece il messaggio può essere: cerchiamo di muoverci insieme anche uscendo dalla nostra città, da Milano, e proviamo a guardare qualcosa che ci stupisca, che ci meravigli. Se non facciamo anche noi stessi, rinunciando a questa logica assillante dei consumi, degli esercizi di semplicità e di sobrietà da lasciare ai nostri figli, come potremo allora avvicinarci, come dice Don Gino, all'essenza dell'affetto, della relazione, di qualcosa che può essere presente nella nostra esistenza, nella nostra vita, ma che sicuramente è anche indizio e segno di qualcosa che la trascende. Don Rigoldi, grazie, grazie davvero. A tutti. Professor Demetrio, grazie anche a lei. Grazie. E buona giornata. Grazie. Prima di salutarvi voglio ricordarvi che lunedì mattina nel programma di Essere Benessere, dopo il GR delle 11, parleremo di NEI. È arrivato il tempo di dargli un'occhiata. Sul nostro sito, sulla pagina di Essere Benessere, abbiamo messo delle foto. Non servono per fare autodiagnosi, ma voglio che voi le guardiate e cercate di cogliere dei dettagli importanti che potete riferirci in diretta dalle 11 a mezzogiorno. Avremo degli esperti con cui parleremo di NEI e soprattutto nella puntata di lunedì voi potrete inviarci in allegato le foto dei vostri NEI. Quindi io vi aspetto lunedì, occhio alla pelle, occhio ai NEI, impareremo a controllarci. E adesso allora per oggi è tutto, buon sabato da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.